Special broadcast, non solo i film della Marvel hanno i crossover, non solo i film che andate a vedere al cinema hanno altri crossover, come quello di stasera. Per te, il super crossover. Il mio, sì, ma in generale come... Esatto. Niente, quindi qua sul dalla Torre d'Avorio del laboratorio sociale occupato autogestito Buridda. Chi c'è? C'è una delegazione di Distro Nair, che è un programma che, ve lo ricordiamo, va in onda ogni martedì la sera dalle 9:30 più o meno fino a tardino. Sono Andrea e Gip. Distro Nair, Lollo e Giua che si occupa della cucina. E voi chi siete? Noi chi siamo? Signori, chi siete voi? Ma io me lo chiedo spesso, chi siamo? Manu, chi sei? No? No, vabbè, io sono Marco e lui Luca ha detto il santo, non perché per motivi religiosi, no, ma di ispirazione a Samuel Templar. Esatto. E siamo stati in FM, siamo tuttora in varie, gli urlatori della sbarra. Esatto, dal film di Lucio Fulci, per chi non l'avesse visto e chi non lo ricordasse. Uno dei primi musicarelli con Mina, Celentano, ma soprattutto Chet Baker. Chet Baker che in realtà è soltanto sdraiato nella vasca che do, cioè il suo ruolo non è che sia centrale. Perché era drogato come suo solito, sì, assolutamente. Diciamo, noto eroinomane, quindi bene così. E invece chi abbiamo qua? Chi abbiamo? Dai, parlate! Guarda, questa non lo vedete, ma è una sala molto scarsamente illuminata, possiamo puntargli contro un riflettore. Tu non avete Disco Mostro... Disco Mostro da... Come... No. Ognuno ha i suoi vizi, d'altronde. Esattamente. Ha chiesto un po' di bio. Lo so che l'ha chiesta in... Lo so, però Carlo sta sempre all'ultimo banco, non si capisce cosa dice. Io sono un po' più incasinato. Ma perché lui scarno nel fare delle domande, non argomenta bene. Però penso, dopo tanti anni... Penso positivo. Penso positivo, soprattutto. Youth Crew. Giovanotti. Ma volevi chiedere un po' di bio, un po' di... Ma sì, chi siete? Come giustificate la vostra esistenza su questo misero pianetuncolo? La seconda domanda non avrà mai una risposta. Ok, va bene. La prima, siamo Disco Mostro, una band relativamente nuova, perché in realtà esistiamo da 2-3 anni come Disco Mostro. Parla vicino al microfono. Ci siamo messi insieme, ma ognuno in realtà proveniva da altre band, altre... Insieme in realtà, mi viene in mente il bigliettino. Sì, in quattro. Sì, esatto. Una mucchiata così. Recentemente abbiamo cambiato bassista ed è arrivato Andy a darci un forte. Mi sembra che abbia esordito a Genova, se non erro. È proprio così. Sì, esatto. Perché i Disco Mostro già si sono visti non su queste frequenze, ma per queste strade l'estate scorsa. L'ultimo concerto, tra l'altro, fatto al defunto Spazio Libero Utopia. E io modestamente non c'eri. È andata bene. Però ho fatto sta scelta. Però ho scoperto una prima, mi ha raccontato una cosa divertente. Che praticamente, per chi non lo sapesse, Carlame, vabbè, tanto è la cosa che è la pietra dello scandalo ogni volta che si parla di Disco Mostro. Purtroppo, anche no, che vabbè, gli Scrooners, che era il gruppo precedente di Carlame, hanno suonato a Imperial Babilonia con i Santa Maria. E tra l'altro, il batterista di Santa Maria lo avevo rivisto dopo tantissimi anni proprio al concerto di loro Utopia. Pensa a te, gli incroci del destino. Chi l'avrebbe mai detto? Il destino, che è un modo molto carino, è un modo molto carino per dire siamo quattro sfigati. Sì, no? Sempre gli stessi facce, che palle. Io mi ricordo anche l'Artisa Savona. Gli Scrooners all'Artisa Savona, sì. Moltona, tra l'altro molto era bello il flyer di quel tour, che c'erano proprio delle praticamente delle lapidi, sì, e c'eravate lapide. Voi nella foto di rito data di nascita e morte tutti nello stesso anno, esattamente. No, era flyer come non se ne vedono più, no, perché no. L'uso dei flyer, come dicevamo l'altra volta, si sta assottigliando, no? Male, questo è molto male. No, perché il flyer è centrale, flyer cola da muri è... Esatto, con la cosa del che lo passi sul computer. Sì, però non è la stessa cosa. Ma no, cioè, manco tanto vicino. Lui ti sta guardando e dire: ma sti qua ci hanno invitato qui per fare intervista noi o per in dire realtà delle stanno loro? Facendo un monologo loro. Meravigliosamente stanno facendo un monologo e sta rimbalzando lo sguardo, lo vedo tra tutti e tre, ascoltando quello che diciamo, ma veniamo. Veniamo al dunque. Veniamo al dunque, ascoltiamo un pezzo e diteci voi che pezzo avete ascoltato. Tanto siete molto prolifici. Quindi... Dei vostri o di chiunque altro? No, dei loro. Lo faremo scegliere subito a Andy. Dai. Andy. Ma io consiglierei... Il metro consiglia? Un aspirapolvere. Spargi sale. Spargi sale. Olè. Vai, adesso lo stiamo mettendo su VLC con i nostri potenti mezzi e sta partendo, è partito. Eccoci sul crossover event Distro Nair, Urlatori alla sbarra, LS Brida versus Discmaster. Ah, dicevi che avevi una... Te la, tanto te la ricordi ancora o l'Alzheimer? Ma no, me le, di solito me le scrivo su un foglio. Ah, non me le hai scritte come ai vecchi tempi? Ma dai! Ma dai, poi me lo lasci che me lo metto... Ah, cazzo, fantastico. Sì, eh. Ma non mi ricordo neanche che... Ma no, cazzo, no, mi fai chiamo. Fai la domanda. Allora... Del secondo disco, se dovessi scegliere due canzoni, sceglierei questa e Fieno. Okay. Mi piacciono tantissimo le analogie che fai. Scrivi tu i testi, Carlo? Sì. Le analogie che fai, quindi volevo chiederti appunto da cosa ti nascono i testi e se hai un rimando che secondo me è un rimando a quello che era la scuola hardcore vecchia maniera con cui sono cresciuto io, che sono un po' più che anziano. Beh, rimando sicuramente sì, perché io sono cresciuto con quello, sia come ascolti sia come esperienze, per cui da lì arrivo e quello che mi è rimasto dentro è quello, anche perché in realtà ho sempre continuato a farlo. E invece la prima importante domanda era? Era appunto l'analogia che usi tra uno stato d'animo e degli... quasi elementi naturali, diciamo, oppure nel caso dello spargisale, un mezzo. Okay. Sì, in realtà non è così voluto, semplicemente scrivendo mi piace appoggiarmi a delle immagini per poter... Cioè, perché le trovo molto evocative. Mm. Sì, ma cioè, molto, molto belle che colpiscono. Allora, sì, nel senso che sì, nel mio caso sì. Appoggiarmi a un tipo di immaginario che magari è poco comune in un genere musicale. È molto efficace ad esprimere quello che viene fuori, sia perché essendo poco comune forse colpisce di più chi ascolta, no? Però si rasentano appunto lo spargisale, che è un oggetto, comunque sono oggetti che conosco tutti, che hanno un valore quasi archetipale, no? Lo spargisale, capito? Sì, no. No, perché comunque funziona, cioè è una cosa abbastanza efficace, cioè tutti vuol dire che quasi archetipale. Non so se raggiunge, ma non è un tutti, pregio però... forza. È un difetto? No, ma neanche. È solo una qualità, raga, ma perché lui è veramente così, cioè non è che ci pensa quello che scrive lui. Magari delle volte ti esce con delle cose Minchia raga, c'ho il cuore a pezzi, mi serve uno spargisale che sono tutto nero, tutto ghiacciato. Ah, però è così, cioè vive così. È un'immagine che cose che ti, con cui ti parla. È la classica cosa che però la prima volta che ho sentito la canzone ti colpisce, cioè sì, comunque funziona, perché alla fine sono un po', cioè alla fine se vuoi vedere le diverse scuole, ci sono i super ermetici tipo indigesti che non capisci, che sono gli ungaretti sì, della situazione dove si capisce quello che si vuole. Ci sono i wretched, o comunque gente che dice le cose in maniera super esplicita, a volte anche sloganistica, e alla fine questa è un po' la, non lo so, una, non dico una via di mezzo, perché comunque c'è un livello di introspezione, però alla fine l'introspezione va proiettata in qualche modo. Cioè, secondo me è un modo molto efficace invece di scrivere. È la classica immagine che mi è piaciuta perché paradossalmente avrei voluto scriverla io, non ne sono fatalmente capace, e mi colpisce il fatto che qualcuno possa esprimere un sentimento che con queste che parole spesso, del cazzo. Esatto, che, certo. Che poi possa essere, posso interiorizzare anche, perché poi sono situazioni della però vita. Sì, funziona, sì. Per esempio, una cosa che ho notato sia dagli Scrooners che dei Disco Mostro quando avete suonato Utopia, che il seguito. Cioè, sono sempre stati un buon gruppo spalanca porte. Cioè, io mi ricordo, che so, niente dietro, niente davanti, io tutti i santi giorni lo ascoltavo e poi da lì sei finito verso altro, come potevano essere ascolti, Negazione, okay. China, okay. Eccetera, eccetera. Però era proprio la cosa del fatto che erano espressi in maniera semplice, diretta e soprattutto magari non erano appesantiti da mille riferimenti letterari, come la settimana scorsa abbiamo messo gli Affluente, per esempio, che è un gruppo che amo, che però è un altro modo di approcciarsi le cose. Cioè, tu sui testi degli Affluente ci inciampi nei libri. Invece gli Scrooners, proprio per questo livello di accessibilità, a parte i pezzi che sono anche sia per il Disco Mostro che per gli Scrooners, anche musicalmente sono scritti secondo me molto bene, però ha sempre avuto questa, wow, ha detto una cosa, ha espresso il mio disagio in una maniera molto semplice, a prova di ragazzino che sì, magari mi piace che siano comprensibili e piuttosto diretti, anche se poi magari a volte si attaccano a metafore oppure sensazioni piuttosto personali. Però esatto, mi piace che è un equilibrio che lo fa, sia gli Scrooners che gli Disco Mostro hanno sempre fatto in maniera molto singolare. Cioè è la cosa che secondo me li distingue da... Sì, me lo dici, sono contento perché ci tengo che... Ci ho sempre tenuto questa cosa. È una cosa che è semplice, ma niente affatto banale. Perché il confine spesso è anche molto labile, no? Cioè, nel senso, per finire nello sloganeggiare, tra virgolette. Non mi piacerebbe ridurmi a slogan o frasi fatte. Di solito, poi anche se non sembra, c'è uno studio piuttosto lungo dietro i testi, proprio per raggiungere anche questa semplicità, perché a volte ci sono delle cose che arrivano da discorsi o immagini o pensieri più complessi, intricati. Per poterli semplificare dentro la testa, il lavoro è piuttosto impegnativo, no? Se tu vuoi che arrivi e vuoi cercare di farlo arrivare a più persone possibili, ci devi lavorare un attimo. Non lo so se arriva come vorrei io, però mi piace che... Tutto è interpretabile. Certo, esatto. Diciamo che mi piace che abbia una certa... Anche di Open White, dei sì. Minor Threat, poi è stata reinterpretata in altro modo. Mi ricorda molto, sai cosa? Cosa? Per fare un po' la roba più acculturata, il porto sepolto di Ungaretti, come significato che lui si immerge nel porto sepolto di Alessandria per tirare su una parola. Devi far sapere che è una cultura generale? O no, però mi è venuta in mente questa cosa. Non lo pompate così tanto che poi fa la carriera da solista, c'è un bug. Esatto. No, ma come approccio? Da interno del gruppo, anche io e penso che gli altri, ogni volta che ci fa sentire un provino o ci manda i testi, rimaniamo comunque colpiti dai testi. E lasciano la band ogni volta. E ogni volta dico, raga, io me ne vado. Infatti è il prossimo Vasco Bron. Questa è di sicuro, buttala lì. Questa potrebbe, teniamola, è una provocazione. Potrebbe essere anche una provocazione. Un giorno, oppure è un suo testo di domani. Un giorno, quando succederà, io l'avevo detto. Tu l'avevi detto, va bene, dai. Altra scelta, Manuel. Scegli tu. È il fieno, che l'ho già detto. Frullatore. Ok. Diamo di frullatore. Non riesco mai a fermarmi in tempo e non presto mai che poi pago il conto e non riesco più a fidarmi di me. tutto, tutto scorre, scivola tra le dita, scivola la mia vita, sempre più veloce, e non dormo mai, per non soffocare, con te. Anche nel fuori onda, esatto. Nella Torre d'Avorio, c'è chi ha preso un 6 e mezzo, dai. C'è chi ha preso un 6 politico alla grande. Sì, sei politico, sempre tirato, sei apolitico, sei apolitico, esatto, molto più severi noi, sei apolitico. Poi invece 6 e mezzo per gli urlatori della sbarra, un 6 e mezzo, sei mezzo. Sei e mezzo, ci sta tutto bene. Allora, dunque, hai domande te? Io sono mezzo e mezzo. Ah, niente, una cosa che dicevo, oggi siamo qua, tra l'altro suoniamo. Dov'è? Che serata c'è oggi? C'è una serata in cui ci sono un sacco di belle cose, cioè che serata a tema, diciamo, queer e hardcore, queer core, le due cose unite anche in maniera non proprio organica. Per esempio dopo ci sarà la proiezione di Ricordi Favole, che è un documentario che ho curato insieme alla Stefania, che è su interviste. Stefania chi è? Stefania, la nostra amica videomakers, che questi microfoni conoscono già molto in realtà. Quindi vabbè, magari ascolta qualcosa. Tra l'altro Stefania, la nostra amica videomaker, comunque non è che c'è niente. Stefania, la nostra videomaker. Stefania Carbonara fa dei bei video e possiede il know-how tecnico per riuscire a farci fare dei video belli, anche se noi siamo degli zapponi, siamo solo dei gran nerd. Esatto. Poi c'è un'esposizione di foto di nudo molto belle. E la proiezione All Bodies Are Beautiful. Esatto, All Bodies Are Beautiful, quindi foto di nudo molto con gusto e per ogni gusto. Esattamente, bravo. E dopodiché ci sarà se ho capito bene, la proiezione di un altro documentario molto breve che si chiama Fuck the Fascism, che parla di ragazzi che vanno a dissacrare monumenti colonialisti con i loro corpi. Pensavo ci fosse un porno, io me lo pensavo. No, invece no. Il porno ci piace solo posta, queste cose. Solo, mamma mia, ma mai una gioia. E niente, quindi volevo chiedervi, cioè, voi, cioè, che rapporto avete con tematiche, diciamo, quelle che vengono chiamate tematiche queer? In che senso, che rapporto abbiamo? Cioè, che rapporto, cioè, cosa vi interessano, li preferite? Ovviamente ci interessano, esatto. Totale supporto a questo tipo di tematiche. Non so, forse la particolarità che posso dire è che con Scrooners facevo i testi, ma non cantandoli non potevo approcciarmi a questo tipo di tematiche perché sono più personali, no? Invece adesso mi sento libero di toccarle nei testi, perché le canto io direttamente, per cui mi posso sentire libero di affrontarle. Non ci avevo mai pensato a questa cosa. In realtà ci sono molti riferimenti celati, però non celati nel senso nascosti, ma nel senso che ho sempre cercato di mantenerli ambivalenti, in modo che chiunque potesse interpretare certe cose. Con Disco Mostro le canto direttamente, per cui posso essere più esplicito, senza filtri, rispetto a lo strumento voce, chiamiamolo così. Ecco, no, una cosa che almeno voglio confrontarmi sull'ambiente queer, che non si rischia, come spesso accade quando si crea, diciamo, una categoria a livello sessuale, di di creare un ulteriore ghetto di solo per diciamo la consumazione consumistica dell'atto. Intendi nel nostro caso particolare? No, in generale, in generale io chiedo, dipende sempre da come si affronta la cosa, la personalità. Poi ognuno fa per sé, da voi nel senso. Ci sono sicuramente casi che in realtà si indirizzano solo verso quello, però c'è tutto un mondo che non è fatto così, ma come è in qualsiasi altro ambiente, certo. In realtà. Per cui no, e nel nostro caso assolutamente no, nel senso che non ci siamo mai ghettizzati su anche il tipo di tematiche, ad esempio. Sono varie, c'è anche quello, ma non è l'unica tematica che portiamo avanti, anzi, per cui cioè, siamo individui completi, completi male, ma completi. per cui felicemente disfunzionali. Felicemente male, e quindi è una parte delle cose che scrivo, una parte delle cose che affronto, ma non è l'unica, non sarà mai l'unica. Certo, beh, come me. Non ho capito se era davvero questa la domanda o se ho sviato. No, o no, però comunque è risposto in una maniera che comunque aveva senso, cioè per me ha avuto un senso uguale. Sì, non importa, se okay. Questo era quello che volevi rispondere, ben venga questa okay. Risposta. No, io anche perché lui non sa se cosa no, ha se, esatto, primo, io non so cosa ho chiesto, e se no poi concordavamo prima con i tuoi avvocati. Vabbè, certo, che sono se dovevamo fare domande fatte ad un certo modo, uno fa una domanda e si becca la risposta che arriva, ed è sempre giusta. Non è neanche uno soltanto, proprio un pool di avvocati. Sì, un pool di avvocati. Ne ha 16, uno in più di OJC. Pool di denunce. Siamo 7, come pronte, che c'è sempre Franco. Sì, giusto. Sono buttato lì. Beh, quella io ce la giochiamo dopo, che sono sardo. Dai, sì. Su, altro pezzo. Altro pezzo? Beh, io vai. Lo scelgo io, direi mostro. A vai, punto. A tematica. Ci arriviamo. Se no lo cambiamo. No, siamo arrivati. Ormai ha scelto. Dagli. Siamo tornati in onda, dai, che non ho. Che stavi facendo questa filippica solita che sono sempre che palle la gente a cui piace tutto, che palle la gente che esatto, non approfondisce no, le cose. Esatto, e soprattutto quelli che scrivono nelle recensioni la bio che gli arriva legata al promo. Esatto. Che non ha senso. Ti fa proprio salire la merda al cervello. Mi fa sbroccare, sì. L'ho sottovisto più di una volta. Ma vabbè, mi si chiude la vena. Faccio una domanda tecnica? Dai, fai. Mi piace, dato che avete il bassista nuovo, ho capito bene? Mi che piace quello là, quello là in fondo, che mi sembra anche... Che parla poco. Che mi sembra anche giovane. Secondo me è anche vagamente il protagonista di Mr. Robot, la serie. È un complimento? Vero, no, praticamente fra di me. Mi piace tantissimo l'uso che fate del basso, che in alcune canzoni è proprio portante. Ed è una cosa che mi piace perché forse è anche mutuata non solo dall'hardcore, ma anche da un certo tipo di new wave che mi piace particolarmente. Allora ti voglio chiedere, dato che sei comunque nuovo, ti sei trovato già fatto tutto o ci hai messo del tuo? E soprattutto quanto ci hai messo del tuo? E ti ripeto, comunque ti faccio i miei complimenti perché a me piace tantissimo come lo fai. Intanto grazie. Figurati. No, comunque sto cercando di metterci del mio, per ora mi sto ispirando tanto a Miki, il bassista precedente, che comunque mi ha sempre colpito come stile, appunto. Per cui no, adesso cerco di interpretarle, ma mantenendomi ovviamente fedele il più possibile a quello che era il suo stile, almeno sui pezzi fatti finora. No, perché sono un sacco di pezzi in cui veramente un uso è molto bello, perché è molto il basso viene usato come strumento importante. Nell'hardcore già capita meno che in altre situazioni. C'è anche qualche assolo di basso bello, tra l'altro. Molto, molto usato, molto bene. Cioè, appunto, è una cosa che mi ha colpito un sacco. Diciamo che Biggie ci ha fatto un bello scherzone, nel senso che, allora, noi non sapevamo che lui dovesse andare via dai Disco Mostro. Non è successo niente, siamo rimasti in ottimissimi rapporti. Però lui dentro di sé sapeva che sarebbe stato uno degli ultimi dischi registrati a cui teneva, e quindi si è impegnato particolarmente a fare delle belle basso. Infatti anche in studio ci ha dato dentro, perché infatti sono molto articolate, anche il suono è stato abbastanza studiato. E poi lui viene da scuola Suicidal, si sente un'antica. Sì, sì, però sono molto contento di questo, di questa cosa che hai notato, e sarebbe molto contento anche Miki, anzi sarà contento. Dai, insomma, mi fa piacere. E comunque, se avete preso un bassista nuovo, è uno che sicuramente se la sfanga, perché è difficile, è difficile fare quello che faceva. L'abbiamo preso perché assomiglia a quello di Mr. Rock. Ma sì, no. Io lo trovavo carino a prescindere. Cioè, senza assomigliare, perché non l'avevo colta, però. Beh, sai che io le stronzate col botto. Cioè, sì. Tra l'altro, bravo. Dimmi. Perché questa è, grazie, proprio tecnica dell'intervista, fare una domanda anche all'ultimo arrivato per far sembrare che stiamo dando importanza a tutti. Cioè, che per dire, non... che cattivo che sei. Cioè, non conti un cazzo, però è bello che... capito, gli facciamo una bella figura. Giusto, bene. Giusto, esatto. È vero, ma esatto, divari di età tra tutti. Possiamo, cioè, passare un'altra domanda. Avvocati stanno già scrivendo. Esatto, ma cos'è avvocati? Guarda che qua c'è lo SWAT già che ci entra con le pedate. È troppo tardi ormai. Stai attento a quello che dici. Ecco. Vario d'età, adesso che è andato via il Miki, siamo un po' più ravvicinati. Insomma. Vabbè, Miki 48. Sì, però ne ha 12. Ehi, c'è la mia età, eh. 24. Cazzo, che bello. Visto, siamo dai 24 ai 38, senza fare nomi, ovviamente. Su chi ha 38, sia che 24 lo abbiamo capito. E basta, poi ci fermiamo. Basta, gli altri... No, okay. Qualcuno di voi me l'ha detto prima, quindi io potrei sparare malissimo. Vabbè, ma allora gli avvocati che cazzo ci stanno a fare? Cioè, guarda che ti arriva la telefonata, sappilo. Va bene, prossimo pezzo? Qual è? E dovete dirlo molto. Prego, a me è piaciuto. Allora, io? Vabbè, devi scegliere tu? No, scegli tu voi. Ci sono loro. No, loro hanno già scelto, scegliete voi. Ce ne scelgono io? Okay. Dai, posso? Dai, lo prima lui e poi l'ultimo, tanto facciamo i saluti. Okay. Se poi tu, poi lo faccio io. Mette, metto Vermi, che Sergione l'anno scorso ci ha lasciato ed è stato un pezzo a cui non ho potuto non pensare. Bene, e riparte VLC. Sì, aspetta però. Un attimo, che risaliamo la sua dente. Dei pezzi più dedicati, dedicatissimi. Delicatissimi. Bene, dunque direi che ne abbiamo abbastanza tutti quanti di questa cosa qua, e quindi possiamo avviarci gioiosamente verso l'uscita di sicurezza. Tanto per fare una... Chi è ancora in tempo ci sta ascoltando, vi ricordiamo che questi simpatici signori, perché qualcuno ha 38 anni quindi è signore ormai, quando signorina, ti chiamano signorina, ciao, anche signorina. È calcolata 30 anni comunque. Okay. Età media, sì, vabbè, quindi per l'hardcore già dei matusa. È il bassista nuovo che la bassa. Mi ricordo che un tempo si diceva non ti fidare di chi ha più di 30 anni, no, di 20 addirittura. Ma di 20 cazzo era veramente di 30, e quindi siete giusto con la media, affidabili. Pensa quant'è che non ti puoi fidare di me. Guarda, ma mai fidato, quindi neanche quando ne avevo meno. Bene, facciamo qualche... vediamo se vogliono dire qualcosa. Di solito sì, ultima diciamo, dichiarazione. Se volete dire qualcosa di vostro. Sicuramente Andy. Aspetta che gli avvicino il microfono. Per dire questo. Che niente, non so come sono finito in questo gruppo e non so come ne verrò fuori. È proprio una richiesta d'aiuto. A chi dobbiamo inoltrare? Guarda questi occhi da cerchiato. Non ho visto disagio, effettivamente. Sì. Evidentemente imbarazzato della situazione. Invece sì che gli ho tirato fuori che non hai detto niente, di qualcosa. Ma io sono batterista. La batterista non dice un cazzo. Il batterista non dice niente. Pensa che lui che suonava la batteria faceva pure i test negli screen. Esatto. E secondo me parlava anche. Non è che come. No, all'intervista. Te ne guardavi bene da parlare. Bene, niente. Allora la chiudiamo qua in allegria, GP. Che sì. Dici? Che tu che sei il capomastro e oltre non la mettiamo io capo di cosa potremmo scadere nel triviale capo, ma non vogliamo e quindi la scegli te oltre la scegli te il più anziano a questo tavolo, mi sembra un modo giusto di concludere questa cosa qua. Beh, dato che ne ho parlato, secondo me il pezzo lungo finale è un pezzo da mettere perché secondo me rompe un attimo con... E quale sarebbe il funerale? Pezzo lungo finale? Loro funerale? Non, loro, funerale? Funerale. Funerale? Beh, ma no, adesso ci mettiamo prima su VLC a trovarlo, così da non... Certo, da non costringere... Ma l'abbiamo già trovato? Tre minuti e mezzo di canzone, strano, un po' stranita. Non che minutaggio maggiore di disco mostro ever, penso... Mai più oltre i 6 minuti. La Stairway to Heaven. Però è un pezzo perfetto, 3 minuti e mezzo, il pezzo perfetto. Proprio da singolo anni 60, no? 3 minuti e mezzo. O vari 7 pollici degli Agatocle. Molto radiofono. Il disco durava un quarto d'ora. I primi 5 dischi degli Agatocle. Esatto. Vabbè, lascia stare sugli Agatocle, potrei raccontare. Ma niente, quindi ringraziamo il Disco Mostro. Grazie. Ringraziamo grazie alla regia audio che supportato questo scelto. Non ce la fa più. Ringrazio personalmente Gippi, il Numa Pompilio della scena hardcore italiana, e te invece non ti ringrazio per un cazzo. Grazie. Io ti ringrazio. Grazie qua. Al cazzo. Grazie. Esatto. Siete proprio delle bestie. Grazie. Oltre. Ciao. Yeah.